La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla terza edizione di Storia in Piazza, iniziativa organizzata a Genova presso il Palazzo Ducale dal 29 marzo al 1 aprile, il cui tema quest'anno è Popoli in Movimento. Ospite ai nostri microfoni Antonio Gibelli, docente di storia contemporanea tra i curatori della rassegna. Ma ora la parola va a Dino Pesole. I movimenti dei popoli accompagnano da sempre la storia umana. Nell'età della caccia e raccolta, si legge nella presentazione della Storia in Piazza, terza edizione dell'iniziativa organizzata a Genova presso il Palazzo Ducale dal 29 marzo al 1 aprile, gli spostamenti sul territorio sono motivati dalla ricerca di cibo, ma anche dopo la scoperta dell'agricoltura, l'invenzione delle città e la nascita degli stati continuano periodici o definitivi, lenti o tumultuosi, pacifici o segnati da violenza. Si tratta a volte di grandi ondate verso spazi vuoti o di vere e proprie operazioni di conquista in grande stile, oppure di movimenti coatti. È il caso della tratta degli schiavi dall'Africa alle Americhe, movimenti volontari come le grandi migrazioni dei secoli dal XIX al XXI, che mescolano le culture e modificano le forme espressive. Infine sono deportazioni, accompagnate da disegni di sterminio, il caso degli armeni fino alla Shoah. Popoli in movimento è il titolo dell'iniziativa. Per 4 giorni storici, scrittori, filosofi discuteranno su questo tema attraverso lezioni, incontri, dibattiti, laboratori e tavole rotonde, serate di spettacolo, giochi collettivi, presentazione di libri e attività organizzate per le scuole. Popoli in movimento diventa chiave di lettura della nostra storia, dove il rapporto tra il definirsi delle città, dei paesi e il movimento dei popoli è un elemento costante. Popoli della Mesopotamia, ma anche le invasioni barbariche, gli arabi nel Mediterraneo e la diaspora ebraica. Tutti esempi di popoli in movimento che in epoca più recente investono fenomeni di notevole rilevanza economica e sociale, dalla tratta degli schiavi alla grande migrazione di fine Ottocento dall'Europa verso le Americhe. In Italia nel Novecento assistiamo a massicci spostamenti dal nord-est per la bonifica delle paludi pontine, ma anche all'esodo istriano-dalmata, alla migrazione degli anni 50-60 dal sud verso il nord. Sul piano europeo si segnalano le enormi deportazioni di popoli nell'Unione Sovietica di Stalin e gli oltre 10 milioni di tedeschi che dopo la Seconda Guerra Mondiale sono passati da est a ovest. L'Africa è il continente che nel corso della storia ha subito i più massicci flussi forzati di migrazione. Una sezione della rassegna si occupa proprio di storie africane e la fotografia offre un contributo di grande interesse, come le foto scattate da Pino Ninfa in Sudan nel 2007, qualche giorno dopo la fine dell'esodo forzato in massa di circa 50.000 persone costrette a lasciare le loro terre sulle sponde del Nilo per emigrare nelle zone del deserto nubiano. La causa di tale massiccia migrazione è stata la costruzione della diga di Merove, sulle rive del Nilo, nel nord del Sudan, a circa 350 chilometri a nord della capitale Khartoum. Costretti improvvisamente a cambiar vita, a ricominciare da capo, gran parte dei Manasir, Amadeb e Amri, che abitavano la zona, sono già stati dislocati in nuovi insediamenti nel bel mezzo del deserto, dove ora vivono in condizioni di povertà assoluta e le malattie e il disagio sociale crescono di giorno in giorno. Le immagini di Ninfa ci restituiscono parte di quella migrazione e documentano anche il ritrovamento e il tentativo della spedizione archeologica diretta da Alfredo e Angelo Castiglioni, incaricati dal British Museum di recuperare e salvaguardare le antichissime testimonianze di arte rupestre della zona che l'acqua della diga avrebbe fatto scomparire per sempre. Abbiamo in linea il professor Antonio Gibelli, docente di storia contemporanea all'Università di Genova, che è tra i curatori della rassegna. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Allora, abbiamo sintetizzato per i nostri ascoltatori un po' in linea di massima quali sono gli obiettivi di questa interessante e importante rassegna che si aprirà il 29 marzo. Vorrei con lei però approfondire un po' meglio l'obiettivo di questa iniziativa. Sì, intanto voglio ricordare che questo questo appuntamento del 2012 è il terzo di questo genere. Abbiamo fatto nel 2010 una rassegna sul tema della nascita degli stati nazione, degli stati nazionali. L'anno scorso, 2011, una grande rassegna sul tema delle guerre. E quest'anno il tema è quello dei popoli in movimento, quindi ormai questo è diventato un appuntamento annuale che si tiene a Genova, che è forse il più grande, il più importante appuntamento nazionale e non solo, sui temi della storia. Cioè la questione è questa: noi, il nostro proposito è quello di organizzare un evento che su 4 giorni faccia vivere intensivamente un grande tema storico, con la capacità di unire l'aggiornamento scientifico, la serietà scientifica, con una forte capacità divulgativa e una forte capacità di coinvolgimento. Intendo dire che alla storia noi possiamo accedere attraverso una lezione anche impegnativa, ma attraverso emozioni. Direi che anzi le emozioni sono un modo molto importante, un veicolo di conoscenza importante, quindi di qui il fatto che in questi appuntamenti di 4 giorni noi mettiamo in gioco sia i grandi storici internazionali e nazionali, sia artisti capaci di, appunto, di adottare linguaggi diversi, il linguaggio della fotografia, il linguaggio del teatro, il linguaggio della musica, e attraverso questi entrare dentro le emozioni della storia e quindi far sì che il pubblico sia coinvolto in una conoscenza emozione che lo porta a farsi domande e a darsi risposte su, appunto, grandi temi. Quello di quest'anno è questo dei grandi movimenti di popoli nella storia. E tra l'altro, appunto, per i nostri ascoltatori possiamo ricordare che all'interno di questa rassegna ci sarà anche una mostra permanente, si chiama Memoria e Migrazioni, che sarà allestita al terzo piano del museo e racconta in 1200 metri quadrati e oltre 40 postazioni multimediali l'emigrazione italiana e l'immigrazione straniera via mare, anche perché, appunto, non dimentichiamo, noi siamo stati per molti anni un popolo di emigranti. Emigranti, sì. Sì, a dire il vero, per la precisione, all'interno delle attività della Storia in Piazza c'è un rinvio a una iniziativa permanente che c'è a Genova, che all'interno del Museo del Mare e della Navigazione c'è un settore permanente che si chiama Memoria e Migrazioni, con un bellissimo allestimento. Questo però è indipendente dalla Storia in Piazza, c'è come un link che all'interno della Storia in Piazza che rinvia quest'altra iniziativa permanente, che è uno straordinario museo delle migrazioni italiane, che però non dimentica che, se appunto l'Italia è stata, il popolo italiano è stato un popolo di migranti che ha espulso molti milioni di uomini tra 8 e 900, oggi è diventato territorio di immigrazione. Quindi questo settore del Museo del Mare e della Navigazione si apre con le migrazioni italiane verso l'estero e si chiude con un barcone di quelli che sono sbarcati a Lampedusa, portando il loro carico di miserie, di speranze anche talvolta, e che sono oggetto della cronaca di questi giorni, di questi mesi. Questo è certo un settore collegato, diciamo. E poi il grande insegnamento di fatto che viene anche se noi esaminiamo in modo retrospettivo la nostra storia di popolo di emigranti, ed è quello dell'integrazione, perché noi italiani siamo stati integrati, seppure molto a fatica, nei paesi che ci hanno accolto dalla fine dell'Ottocento in poi. Adesso abbiamo il problema opposto, di integrare a nostra volta i flussi di migrazione che vengono dal Nord Africa. Quindi certo, questo è un problema di tipo sociale, economico, legislativo, di diritti, eccetera, ma è anche e soprattutto un problema culturale, cioè conoscere questi fenomeni, capirli come fenomeni che contengono in sé delle potenzialità positive, e la storia in questo aiuta moltissimo. Gli italiani andavano in America, per esempio, spinti certo dal bisogno, da molte difficoltà, e anche questo esodo fu accompagnato anche da sofferenze, da sconfitte, ma era un esodo che comportava una crescita, non una perdita, una crescita culturale. Noi, per esempio, maneggiamo e mostreremo anche in questa rassegna storica le esempi di lettere di migranti, che sono una delle fonti più belle, più importanti per capire la storia soggettiva dei migranti. E noi da queste lettere comprendiamo come ci sono dei casi bellissimi in cui si vedono, che so io, giovani contadine che negli anni 20 vanno in America, scoprono che cosa significa passare da una comunità contadina relativamente statica a una comunità fortemente dinamica, e ci raccontano nelle loro lettere, che pure sono di semiletterati, letterate, cioè di persone che hanno frequentato pochi anni di scuola, però ci raccontano il modo come si sono adattati e si sono arricchiti e sono entrati in un rapporto dinamico con le culture di accoglienza. E questo significa che, diciamo, noi non dobbiamo leggere né nel nostro passato né nel presente degli altri popoli che si muovono verso di noi semplicemente storie di o esclusivamente di sofferenza, di privazione, di fuga, in altri termini di patologia, ma anche momenti di arricchimento. La storia dell'umanità è tutta percorsa da movimenti, e questi movimenti, a parte quelli che costituiscono in questa rassegna un settore speciale, diciamo così, che sono i movimenti coatti, come lei ricordava, però in generale questi movimenti comportano arricchimento, comportano sviluppo di attitudini, di capacità nuove, non vanno vissuti come patologie, come drammi soltanto, secondo uno stereotipo molto in voga, ma vanno vissuti come sviluppo di dinamiche che portano in sé elementi di positivi. Ecco. Grazie professore, buona serata. Grazie a lei, buonasera a tutti.